y yo, y en el lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggi è una di quelle trasmissioni che tanto fanno bene all'anima, ma anche al corpo. Oggi vorrei parlarvi di autarchia domestica. Non mi fraintendete, non mi mettete nei guai sin dall'inizio. Oggi vorrei parlare di quelli che lo fanno da soli. Di quelle persone che, vi porto il fulgido esempio dei due colleghi che ho davanti, che sono capaci con le loro mani di compiere delle funzioni pratiche all'interno delle loro mura domestiche, che altrimenti richiederebbero sforzi economici, grandi impegni di budget e soprattutto il coinvolgimento di persone terze. Per farvi tirare e per far tirare soprattutto un sospiro di sollievo a chi mi ascolta e chi mi giudica, vi porto degli esempi concreti. Il professor Alessandro Chiappini stanotte si è fatto il nocino. Si è fatto da solo il nocino, ha preso le noci fuori stagione, non so come abbia fatto, perché le noci di solito si colgono i primi giorni di ottobre per fare il nocino, anzi ancora prima, devono essere verdi, devono essere attraversate da uno spillone e quindi essere tutte morbide, puro mallo, e vanno messe in infuso. Però mi ha giurato che stanotte si è fatto il nocino, avrà trovato delle noci surgelate. Comunque non ho motivo di dubitare che lui sappia farsi infusi e liquori a casa propria. Fabrizio Intonti in realtà ha fatto un'operazione che richiede ancor più perizia e ancor più impegno economico. Si è tinteggiato da solo le pareti di casa, non so come lo abbia fatto. Io nei tempi del mio scapolaggio l'ho fatto più volte e ricordo che era un'operazione che cospargeva me di tinture di vernice. Mi ricordo disperato una volta entrò a trovarmi nel mio abituro da scapolo una cara amica e mi trovò praticamente completamente nudo con un sacchetto di nylon al posto del mutante che mi ero infilato, completamente ricoperto di vernice, e stavo tentando di tinteggiare il mio monolocale. Alla fine ci riuscì, ma è molto difficile, bisogna prima togliere la vecchia tintura, pulire bene, rasare le pareti. Se si sbaglia tipo di tintura, ad esempio se c'era una tintura lavabile ci dà la tempera sopra, si stacca subito. Avevo verniciato tutto, poi la mattina dopo si era già tutto staccato, quindi ho dovuto rifare tutto da capo. Beh, quante persone hanno un talento spiccato di autarchia domestica? Conosco signori che si vantano, umarelze soprattutto, di sapersi risuolare e ritaccare le scarpe da soli a casa. Non so come facciano a ricostruirsi il deschetto da calzolaio, però mi giurano che sono capaci di rimettere la suola alle scarpe. Non so quanti anni sono che non risuolo scarpe. Oggi le scarpe non si risuolano, non so perché. Hanno qualcosa sotto di indistruttibile o si buttano via, non so, le vecchie scarpe con la suola, forse quelle che ho comprato ieri che vi avevo raccontato. Altre persone sono bravissimi nel confezionarsi, ad esempio, le famose conserve di pomodoro. Io che vengo da una civiltà rurale, le facevamo a casa, ma avevamo il supporto delle donne dei contadini, grandi pentoloni, notti intere ad attendere come se fosse un parto, le bottiglie che scoppiavano, intanto ne scoppiava qualcuno, un botto la notte, scoppiata una bottiglia. Le bottiglie si avvolgevano con vecchi giornali e venivano tappate con un tappo di sughero. Mia nonna era bravissima nell'annodare, era l'unica a saper annodare con lo spago queste bottiglie. Per cacciare dentro il tappo c'era una sorta di mazzuolo e un attrezzo che mandava dentro i tappi, una cosa complicatissima. Oggi ho amiche iper fighette e radical chicchissime che hanno il loro terrazzo vista sul gasometro di Roma, che convocano tutte le amiche e si mettono con le loro belle gonne fiorate a fare le conserve di pomodoro come una volta, con i loro amici che suonano la chitarra, e ogni tanto insieme alle foglioline di basilico che si infilano dentro la bottiglia del pomodoro sbagliano e mettono altre foglioline che in realtà coltivano sempre con delle piantine sui loro terrazzini. Ma anche quello è una sorta di autarchia domestica. Beh, che voi facciate le conserve di pomodoro, che voi coltiviate la marijuana, che voi vi risuolate le scarpe o vi sappiate costruire i mobili di casa, questa mattina chiamatemi e raccontatemi quanti ancora sanno fare le cose dentro casa, costruire, fare cose, non il bricolage di cui abbiamo già parlato, non l'hobbistica, il sapere concretamente svolgere delle funzioni dentro casa che lasciano dei prodotti, dei manufatti, che non abbiano richiesto l'intervento di manodopera specializzata. 800240024. Come fare i pomodori per l'inverno. Pomodori pelati alla mia maniera, la maniera della Carla Fracci della cucina. Dunque, per prima cosa si prendono dei pomodori belli maturi, si lavano, scegliendo quelli più belli e eliminando qualcuno un pochino più acciaccato, con qualche... non perfetto. Dopodiché si mettono nelle cassette con una strofinaccio sotto per farli asciugare, poi si tagliano a metà, eliminando il picciolo, si tagliano, si prosegue con questa operazione. Ve lo risparmio che è lunghissimo, però questa casalinga con strumenti tecnologici di riproduzione e le sue qualità autarchiche ha messo su YouTube, pensate, quindi è molto avanzata dal punto di vista della rappresentazione del suo talento, la maniera di fare i pomodori nella vecchia maniera. Io ricordo come si faceva, vedete, più o meno ripercorre tutti i passaggi tradizionali, addirittura in sottofondo c'è il canto di un gallo per dare questa sorta di atmosfera agreste e rurale, ma realmente ha ben costruito il suo video, ci sono tutti gli effetti, sembra di sentire il profumo di quella polpa di pomodoro. È interessante vedere come quelli che erano talenti dimenticati, attività che davano un senso all'esistere naturalmente, perché si viveva concretamente attraverso degli atti reali quelli che erano i ritmi dell'alternarsi delle stagioni. E quando i pomodori erano maturi, soltanto in quella stagione erano maturi, e mi dispiace molte volte indulgere in questa sorta di nostalgico senso per un tempo che non c'è più, ma allo stesso tempo è corroborato da una nostalgica attesa di un futuro che viviamo ogni giorno. Beh, non c'erano i pomodori che ogni giorno dell'anno, ogni stagione dell'anno erano sempre lì pronti nel supermercato, sempre maturi al punto giusto. Quindi quando i pomodori erano maturi andavano immagazzinati, questo era il senso di fare la conserva di pomodoro. Non si aveva pomodori tutto l'anno, quindi andavano fatti quando erano nel momento giusto, fatti e immagazzinati. Le bottiglie di pomodoro venivano allineate nelle cantine, tutte belle, orizzontali, e quando cominciava ad essere quasi passati molti mesi dalla confezione, cominciano ad essere un po' acidule, qualcuno faceva un po' di muffetta sopra perché i tappi di sughero non chiudevano mai molto bene. Beh, le nonne, le mamme rasavano la muffa e si usava sempre. Diventava sempre più scura con la conserva di pomodoro, poi alla fine erano proprio le ultime da buttare, ma non si buttava via mai niente. Oggi non ha senso farsi la conserva, perché io vado ogni giorno dell'anno e trovo i pomodori freschi e maturi al supermercato, quindi me li metto nel mini pimer, me li frantumo e me la faccio lì per lì ogni giorno. Però chi vuole ripercorrere questo antico bricolage può seguire questa strada. Danilo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Lei cosa fa? Allora, io ho la fortuna di abitare in campagna, diciamo. Quindi provvedo tutto quello che riguarda l'alimentazione in casa. Per esempio faccio circa 100 vasetti di marmellata all'anno, perché ho la fortuna di avere le susine del mio albero. E invece per esempio per la metto alla prova, mi dica le dosi di zucchero. Allora, per mezzo chilo di marmellata. No, io non faccio... Aspetti. 6 etti di zucchero. E poi cos'altro ci mette? No. 6 etti di zucchero per un chilo. Ah, ecco. Poi ci metto la scorza di limone, che poi però non la metto tritata, giusto tagliata. E poi ci metto in un piccolo, diciamo, un piccolo pezzo di stoffa i chiodi di garofano. E poi li toglio fuori, sì, come infatti. E poi li tolgo fuori. Ci metto una goccina di rum e circa il fabbisogno della mia famiglia. Nessun addensante, nulla, la lascia così? Assolutamente no. Meno un po' liquidina viene, però... No, guardi, io ho la fortuna di avere la cucina economica piemontese che si chiama il Putagé, quindi io anche d'estate, se ci sono 30 gradi, accendo quello, risparmio gas e la marmellata cuoce circa 2 ore e mezza, 3 ore lì sopra. Quindi ha tutto il tempo, non ha che a fretta di dover usare i forni. Io, come diceva lei all'inizio della trasmissione, posso farla anche di sera, faccio anche il limoncello per esempio, faccio tante cose. Per esempio, quindi... mi appoggio a un contadino vicino a casa mia, che non so, io faccio un liquore, glielo do, lui mi regala i salami che fa lui. Vabbè, fate dei rapporti buon vicinato, si appoggia al contadino, lo fa bere, il contadino gli dà il salame. Grazie, arrivederci. Niente, Rosario, bene. Rosario, lei cosa fa invece? Sì, buongiorno. Ma io le dirò, più che faccio fare in casa da mia mamma di tutto di più, vale a dire un insieme praticamente sterminato di attività che spaziano da quelle culinarie, perché in qualche modo, avendo l'età, 59 anni, che è un po' di cerniera, no, tra il vecchio mondo e il nuovo, è proprio, ho avuto un piede di qua e un piede di là. La cosa che oggi volevo un po' così passarvi come riflessione è che viceversa, io assisto un po' con sgomento e raccapriccio a quella specie di snobistica affermazione neanche avvitare una lampadina, che è una cosa che mi fa rabbrividire. Devo solo lasciarla un secondo perché sento che abbiamo un piccolo problema sulla linea. La richiamiamo su un'altra linea perché così vediamo se lo vediamo, perché è brutto parlare di autarchia domestica e sentirla così interrotta. Lei dice che comunque lambendo un argomento, una trasmissione abbiamo già fatto, sente un senso di disagio, questo snobistico senso di orgoglio della propria inefficienza a saper usare le mani, come se l'attività cerebrale fosse privilegiata rispetto attività manuali. Con le mie mani non so fare nulla, però c'ho una testa. Sergio, buonasera. Che si è costruito lei? Andiamo a cose, sennò parliamo soltanto di cucina, che è limitato. No, io sono fuori cucina. Ecco, è la cosa sa fare lei. Allora, io prima abitavo a Torino e sono 7 anni che abito a mezza montagna. Mi sono costruito il balcone, ho buttato giù, ho aperto una porta, mi sono costruito un balcone in legno. In totale regime di abusivismo, naturalmente. No. L'ha sanato poi? No, ho chiesto i permessi e tutto. Mi sono costruito un balcone in legno, tipo quelli della Tirolese. Mi sono fatto 4 disegni, non sono molto un disegnatore. E su cosa si regge il balcone? Su dei travi di legno o i travi messi? No, ho messo i moggioni, come si chiamano in piemontese, si chiamano moggioni. Ha proprio usato il metodo tradizionale? Sì, e poi sotto le ho messo, ancora per sicurezza, delle sbarre che tenessero. Ah, ho capito. Comunque è un balcone, ho fatto la copertura, eccetera, mi sono costruito la cucina in mattoni, cioè, diciamo che in casa ho fatto quasi tutto. E chi l'ha insegnato a fare questo? Nessuno. Con la pratica? Così, con la pratica avevo deciso di fare queste cose, voglio provare, ho provato, ho visto che veniva. E funziona? Sì, infatti ho incominciato con la cappa. Primo lavoro la cappa, però era una cosa semplice la cappa. Eh beh, se non è aspirante, sì. No, l'aspirante poi ho comprato il pezzo a parte. Ah, ce l'ha infilato dentro, però ben nascosto, sono brutti. Sì, cappa aspirante, tutto funziona. Va bene, e bravo Sergio. Ah sì, volevo dire ancora qualcosa, perché devo passare... No, poi ho voluto provare col balcone ed è venuto, tutti mi fanno i complimenti, non so come è venuto, però è venuto benissimo. Beh, finché regge, buona fortuna. No, regge. Michele, buongiorno. Michele, invece lei che fa? Buongiorno, ma io penso di essere un piccolissimo campione del fai da te, le dico velocissimamente alcuni, come devo dire, invenzioni. Io diciamo allora, per 25 anni mi sono alzato tutte le mattine, sia quando andavo a scuola e quando ho iniziato a lavorare, con una radio sveglia fatta da me, ma non in scatola di montaggio, un pezzo qua, un pezzo là, e vabbè, la radio sveglia. Si è costruito una radio sveglia? Sì, ma poca roba, penso che ci sono tante persone che possono fare aggeggi simili. Beh, non ci avevo mai pensato, interessante. Poi, negli anni 90, quando facevo un po' il fighetto così, mi sono costruita la lampada abbronzante. Una lampada abbronzante? E come ha fatto? È pericolosissimo, se sbaglia qualcosa... No, perché sono andato... Rimane lo scarnificato come satanic. No, assolutamente no, perché mi sono andato dal costruttore, che è una famosa multinazionale, mi sono fatto dare le tabelle spettrometriche delle emissioni dei tubi fluorescenti, che ne sono 6 diversi tipi, che emettono nell'ultravioletto, ho guardato quello che emetteva nell'UVA, che adesso non ricorda quanti angstrom emette, e poi con quei tubi lì mi sono saldato i tubi, ho fatto l'impianto elettrico. Cioè, lei ha un bel coraggio, perché di tante operazioni di autarchia domestica, farsi una lampada abbronzante con il rischio di farsi l'arrostino in faccia, però se lei le piace sono contento. Al supermercato poi... È una bella tinta adesso, si è bello abbronzato. No, è da 15 anni che non la faccio più, perché facevo all'epoca, giravo, non ce l'ho là, piena di polvere in garage. Ecco, la lasci lì come ricordo, perché sa, oggi anche la tecnologia si è evoluta. E poi che altro? L'impianto condizionatore a casa, fatto da solo? Sì, quello sì, me lo sono fatto tutto io da solo, 15 giorni a spaccare i muri, a mangiare polvere. Ho fatto la cucina dove abito, tutta fatta da me, una stufa presa di qua, lavandino segato, una cosa che non rifarei mai più in vita mia perché ho sputato sangue. L'armadio muro, la cosa più difficile che ho fatto, un armadio muro, è una cosa incredibile, mi sono cervellato. E poi vari impianti elettrici nelle case degli amici. Ecco, sull'armadio muro mi fermo perché vedo un'ascoltatrice che in realtà ha messo a punto un talento proprio nel costruire mobili. Gaia Soldatini. Gaia, buongiorno. Buongiorno, salve. Cosa sa fare lei? Dunque, io so ripristinare vecchi mobili in disuso e renderli qualcosa di nuovo. Quindi dalle vecchie credenze della nonna fino invece al mobile nuovo di Ikea, che magari è un po' posticcio, di formica, e invece diciamo riprende nuova vita, viene ristrutturato, modificato, adattato alle esigenze, decorato e diventa un oggetto d'arredo. Lei quindi fa risorgere paccottaglia di mobilio da Ikea a roba da rigattiere e diventano delle cose personalizzate. Esattamente, sì. Io in origine facevo faccio l'illustratrice, quindi libri per bambini e cose varie. E praticamente ho trasferito questo il disegno 2D sugli oggetti tridimensionali. Ma quindi sono quasi opere d'arte, diciamo. Ecco, ma cos'è che spinge una signora a iniziare a mettere le mani a seghe, martelli, chiodi, vernici per diventare una mobiliera personalizzabile, ecco, una cosa del genere? Perché all'inizio ci deve essere qualche motivo scatenante. Ma il motivo forse è un po' stata la nascita di mia figlia. Oddio, sì, sono un po' la nascita di mia figlia. È nato un po' come un gioco di fare le giostrine per la culla. Ah sì, le apine della Chicco, mi ricordo, non so se esistono ancora. Esattamente, allora siccome io ho sempre un po' trafficato col legno, un giorno sono andata in falegnameria e c'erano tutti questi meravigliosi scarti e ritagli e pezzetti buttati al lato e c'erano delle forme molto interessanti, per cui ne ho raccolti un po' e ho detto ma vediamo che viene fuori. Li ho assemblati e sono diventati delle api fatte di pezzi geometrici. Quindi lei a casa ha tutta l'attrezzatura per fare queste cose? Sì, sì, ho seghe, martelli, piano da lavoro, pialle, è iniziato come un hobby, poi è diventato anche un lavoro perché mi hanno... Sì, ma sua figlia che è cresciuta, che c'ha la mamma falegname, che dice? No, mia figlia c'ha 8 mesi. Ah, beh, ancora, non ha motivo di rendersi conto della meraviglia che sta accadendo. Secondo me mia figlia mi odierà e avrà una casa completamente bianca e liscia, non ne potrà più da grande. Ma questa sua attività va avanti, nel senso sta continuando? Sì, adesso è diventato proprio un lavoro. Diciamo, li vende pure? Ho creato un sito, sì, che si chiama tra l'altro manufatto.it, e dove ci sono appunto tutte le cose, poi perché le persone me le chiedono, è partita da amici che mi dicevano, ah ma senti, c'ho questa vecchia credenza, non è che me la dipingi, c'ho l'armadio a muro con le ante di formica orribili, facciamoci un ciclo di favole. Quindi l'autarchia domestica trasforma una casalinga disperata, condannata a pulire sederi e cambiare pannolini per almeno 3 anni della sua vita, in un meraviglioso falegname che riesce anche a vendere i propri mobili. Nottetempo, esatto. E quindi insomma, e poi soprattutto secondo me è anche un'attività molto ecologica, perché spessissimo i mobili, cioè cambiando le esigenze nelle nostre case che sono molto piccole, che non so, ecco, nasce un figlio, bisogna buttare un sacco di cose e comprarne. È meglio segare metà del letto, farci una cullina e si vive lo stesso. Esatto. Va bene, grazie Gaia Soldatini. Melog 2.0. Facciamo il sapone fatto in casa. Per fare sapone fatto in casa occorrono 3 ingredienti fondamentalmente: un po' di soda caustica, un po' di olio extravergine di oliva, di modo che riduciamo i residui chimici del sapone al minimo, perché nell'olio d'oliva c'è la sans è un metodo di estrazione chimico, e quindi noi vogliamo fare un sapone quanto più naturale possibile, e poi dell'acqua di rubinetto di... E niente, mischiando questi 3 elementi nelle dovute proporzioni si ottiene una reazione fra una base che è la soda caustica, un acido, e si ottiene un sale, un idrossido. Allora pesiamo la soda caustica, che va pesata molto bene. 800240024, stiamo parlando di autarchia domestica, ci piace andare a raggranellare dentro la rete questi fan, questi pasdaran dell'autarchia domestica. Questo signore spiega come fare il sapone fatto in casa. Suggerirei di fare molta attenzione, un esempio da non imitare, perlomeno se ne hanno gli strumenti per maneggiare sostanze come la soda caustica, se messa a contatto con l'acqua non è che faccia proprio bene, anzi provoca ustioni molto profonde, quindi stateci attenti. Se proprio non morite di bisogno di farvi le saponette in casa, andatevele a comprare, vendono dei saponi meravigliosi, anche quelli belli, colorati, con dentro le fette di ananas, le bucce d'arancia, c'è di tutto. Ormai l'industria, la saponificazione estetica mi sembra molto estesa, però l'autarchico domestico non si ferma di fronte a nulla. Esistono un'infinità di oggetti che si fanno a casa, come ad esempio Dave. Dave, cosa si fa a casa? Ciao, sono Dave. Dave, cosa si fa? Mi produco una cifra di yogurt, ma tanto, tipo 10 kg alla volta. Dio mio, cosa ne fa? Perché praticamente ho starato una vecchia incubatrice, quella per i pulcini. Ah. E quindi ho alzato la temperatura a 44 gradi e mezzo e riesco a fare un bel po' di yogurt. Ma con 10 kg di yogurt al giorno cosa fa? Non è che se lo beve tutto lei? Dura più o meno una settimana e ne mangio un bel po', insomma, al giorno. Non va mai a male. Avrà una, diciamo, una funzione digestiva perfetta. No, guarda, sono molto accelerata. Un orologio. Grazie, dovrei vedere. È interessante. Latte di mucca, nel senso, non quello da supermercato. Guardi, una volta in momenti di forte bisogno di autostima, provammo anche dalle parti di casa mia a fare lo yogurt in casa. Ci regalarono la famosa yogurtiera. Esatto, che insieme alla tre. Sì, che però, senta, dico la sincera verità, occupava un sacco di spazio innanzitutto. Poi sti vasettini di robetta bianca, come mantenersi questa sorta di madre dello yogurt? No, io invece la faccio di volta in volta, perché praticamente dopo vari esperimenti ho selezionato una marca apposita che è quella che funziona meglio. Quindi io su 10 litri butto dentro i due vasetti da 125 e mi produco lo yogurt di volta in volta. È veramente tanto quello che fa, è impressionante. Ma lei ha più la voglia di sentirsi una sorta di titanismo interiore perché è bravo a farsi lo yogurt, o la voglia poi di berselo, perché per quanto possa essere buono alla fine. No, è ottimo, perché poi è ipocalorico, non è, perché di zucchero non ne aggiungo. Sì. E quindi cioè sono le calorie del latte. Lei vive solo? No, con i miei. Ah, quindi lo divide con. Ah, ecco, siete, esatto, una famiglia. Sì, se no mi spiegavo. Sennò la vedevo poi già. Ogni tanto capita qualche yogurt party con gli amici, cose così. Se è un yogurt party, sempre meglio del coca party, se uno dovesse scegliere, esatto, le attività. E cosa fate? Yogurt party? Vi prendete le cannucce e vi ciucciate lo yogurt? No, per lo yogurt party facciamo i vasettini quelli mini, tipo sciottini da duetti. E poi si festeggia tutti allegramente. Sai che allegria, l'euforia sarà alle stelle. Col rum. Dopo un po' cominciato. Col rum, è come il latte più di arancia, esatto, meccanica. Degli amici drughi. Adesso ho capito perfettamente. Bravo Dave. Marna. Pronto? Marna, dico bene? Dice benissimo. Ecco, Marna, lei in cosa eccelle nella sua autarchia domestica? Eccello. Diciamo che faccio una cosina che potrebbe essere simpaticissima ed è comoda, è igienica e salutare. Faccio il dado da brodo. Sa quel dado che si compra? Esiste ancora il dado? Mi fa in mente gli anni degli anni 50. Il doppio brodo, se da quella signora col cucchiaio, la minestrina col dado, allora ci piaceva. Oggi è una maledizione pensare alla minestrina col dado. Fai in mente le suore, l'ospedale. No. È buono. Lei deve fare. Allora, mezzo chilo di pomodori, mezzo chilo di sedano, mezzo chilo di cipolle, mezzo chilo di carote, mezzo chilo di carne da brodo, non naturalmente magra, mezzo litro d'acqua e un chiletto di sale. E fa bollire tantissimo, finché diventa tutto molto morbido, al che lo frulla, lo mette nei vasetti ed eccoli pronto. E come fa a diventare duro come il dado quello lì che era duro? Non diventa, diciamo che diventa morbido. È un dado moscio però. No, non è moscio, è po' come liquidino. Prego? È liquido praticamente, fluido. No, e lei quando fa bollire con mezzo litro d'acqua tutta questa po' di roba che lei... Ma è marrone come i dadi quelli che si compravano? È marrone come i dadi, infatti io faccio, ad esempio, le mie nipotine dalla sera che si gradiscono un po' di brodo con due torte. È ottimo, è veramente ottimo, è tutto naturale. Complimenti, è divertente. Non c'è... E io lo faccio, lo metto nei vasetti, lo distribuisco a figli, nuore, eccetera, eccetera. Ne faccio, non so, una decina di vasetti, in dispensa, non dà nessun fastidio perché non deve tenerlo assolutamente in frigo perché chiaramente c'è molto sale, per cui non mette il sale quando usa questa farina perché praticamente lo usa al posto del sale. Io alle volte faccio il mio brodino, ma è buonissimo, è brodo di carne poi alla fine. Va bene, se lo vuol fare senza carne, non ci mette la carne, ci mette. E diventa brodo vegetale. Brava, brava. Diventa brodo vegetale ed è veramente. Complimenti, complimenti. Io immagino che, come l'ascoltatore di prima, con questa ascoltatrice, saranno tutti parenti, non vedranno l'ora che questa persona venga a casa loro e gli porti quintali di dadi, litri di yogurt o, nel caso di Mauro, pacchi di candele. Mauro, lei fa le candele? Sì, sì. Buongiorno Nicoletti, sì. Sono Mauro. Ma cosa fa il sacrestano di mestiere? No. E cosa ci fa con tutte queste candele? Sai quelle candele che si comprano, che però non si consumano fino alla fine, o quantomeno si consumano solo al centro. E c'è un sacco di cera che secondo me va sprecata. Allora io prendo, la rifondo e faccio delle nuove candele. E dove va a rubarla nelle chiese? Dove le trova le candele? No, compro quelle candele semplicissime che costano pochissime o bianche e le uso da stoppino. Lo tengo sollevato e attorno gli colo la cera riciclata. Ah, rigenera le candele, esatto, le candele usate. Sì. Ma vengo da lei, signore, dicendo guardi, questa candela è usata, me la rigenera, lei gli rimette la cera. Sì, certo. Guarda, è un'attività che non sospettavo. Ma anche i lumini dei morti, quelli rossi? Ma se arrivano anche quelli, io fondo tutto, non ci sono problemi. Se avete candele, perché buttarle via, che sono consumate solo al centro, le portate al signor Mauro che ve le ridarà come nuove. Esatto. Ma chi sono i suoi clienti? No, non ho clienti. È un giro domestico. Uso domestico, bravissimo. Duro domestico, bene. Allora, no, oggi mi state mettendo Isa... Come si... Va bene così, pronunciato bene? Beh, si scrive Isa, ma si pronuncia Isa. Isa, scusi, mi fanno apposta dei nomi che... Isa. Allora, io so fare benissimo la birra, di tutti i tipi, di tutti i maniere, poi per me stesso soltanto. E come si fa la birra? E ci sono dei strumenti per fare, ci sono dei malti adatti per farlo, e ci vuole pazienza e passione, insomma. Lei si fa la birra e se la beve? Assolutamente sì. Bravo Isa, bravo. E adesso abbiamo un vero colpo di teatro, che era insospettabile questa duplice attività, questa poliedrica capacità espressiva, questa mirabolante manualità in Marta Cagnola. Marta Cagnola, buongiorno. Ciao Gianluca, io sento delle cose bellissime. Io voglio partecipare. Cosa sai fare con le tue manine? Voglio partecipare alla yogurt party con Room. Sì. Cosa porti te da parte tua? Io posso portare, non so, potrei fare dei tovagliolini ricamati. Ecco, perché Marta Cagnola fa il punto croce, apprendo. Certo, è un hobby bellissimo. Ci ritroviamo la sera tra amiche. Invece di andare a sbronzarci. C'è una grande crisi, vedo, dalle parti della vostra nebbiosa città. Vi vedete fra amiche? E ci troviamo tra amiche invece di andarci a sbronzare come coi cose. Che cosa brutta, ma pensate. Io proprio ieri sera, guarda, mi sentivo male con me stesso, perché stavo con amici e amiche e ci facevamo un margarita e pensavamo come sarebbe bello fare il punto croce come fa Marta Cagnola. Certo, noi facciamo Stitch and the City invece di Sex and the City, sì, perché si può anche fare la maglia, non è obbligatorio il punto croce. Ma che carine. E prepariamo anche i regalini di Natale quando arriva la stagione. Ma pensa che belli, quei bei centrini fatti a punto croce. Certo, le presine. Pensa che a un'amica che si è sposata abbiamo preparato un corredo di asciugamani. Ma che carine, con i cuoricini. No, ancora meglio, pensa, siccome sono una coppia di straordinari, simpaticissimi geek appassionati di tecnologia, abbiamo inventato tutte delle cifre per loro con i loro nickname, disegnando un carattere fatto con i cubetti, con i mattoncini del Tetris colorati. Ma pensa a te, guarda che creatività. E quindi quante notti avete messo, te e le tue amiche tricotese, a fare questo? Ci trovavamo una sera alla settimana, poi devo dire che ogni tanto, quando la stagione lo consente, ci troviamo al parco, oppure ci sono anche dei locali a Milano molto accoglienti che... Sì, ma ancora a scuola, Marta, adesso non vorrei dire, ma non è che sei proprio putrefatta, questa è un'attività che potrai fare dai 70 anni in poi, cioè tanto tempo. E quello Guarda, invece devo dirti la verità, sta cominciando ad andare molto di moda, soprattutto tra quelle che alcuni telefilm americani chiamerebbero le 30-something, le signorine con poco più di 30 anni, diciamo così. E state lì tutte a fare il punto croce, brave, vi fate il vostro corredino aspettando che arrivi il principe azzurro, avrete già la vostra cassa panca di lenzoline, camicine da notte, fazzolettini, calzerottini, tutti fatti a punto croce, e pensate che bello sarà la vostra vita e il vostro futuro. Grazie Marta Cagnola per questo momento di poesia che ha illuminato la mia ruvida scorza di uomo ormai perduto nei fumi dei vizi e la dissipazione. Melog 2.0. Questa maschera della pelle grassa si può fare con un cucchiaino di miele e un cucchiaio di pomodoro fresco, cioè lo macinate bene. Lo dovete tenere sul viso per 20 minuti, risciacquare con acqua tiepida. Poi per la pelle molto secca invece esiste il burro di pecora. Il burro di pecora che è idratante e nutre. Basta mettere del burro di capra a temperatura ambiente, lo mettete su tutto il viso per 20 minuti e risciacquare con acqua fredda o calda, uguale. Se una bella pelle fresca e levigata, fate come questa signora che ha messo su YouTube la sua formula per una crema di bellezza fatta con il burro di capra. Ecco, chi ha l'idea vaga dell'odore che emette anche il latte di capra, anche i derivati del latte di capra, saprà che questa signorina avrà una pelle morbidissima, delicata e appetibile, ma probabilmente ci sarà qualche difficoltà di assuefazione all'odore che potrebbe emanare. 800240024, stiamo parlando dell'autarchia domestica, della capacità di fare con le proprie mani cose che altrimenti andrebbero acquistate, ma non per miseria, non per povertà, non per bisogno, solo per il titanico piacere di avere qualcosa in casa che abbiamo fatto da noi. Alessandro. Sì, buonasera. Lei ha fatto una vera e propria invenzione. Sì, ho fatto un'invenzione, ovvero sono un cultore delle castagne, abito in un comune lontano che si chiama Giaveno in Piemonte, e mi sono accorto che quando facevano le castagnate, mettersi a tagliare le castagne a mano era un lavoraccio. Ma per farle caldarrosto o per lessarle? Per fare le caldarroste. Ah, quindi lei è un fessatore di caldarroste, fa il tagliettino? Sì. I numeri c'erano castrare le castagne, le castravano. Ecco, noi per castrare le castagne, quindi io e mio padre, ci siamo inventati con un motore di una lavatrice, una macchina in cui tu metti le caldarroste e le castra tutte. Sì, e le castra tutte, sì. E comunque è una soddisfazione perché anche tutti i signori anziani, quando facciamo le feste in cui facciamo le caldarroste, vengono lì a guardare, chiedono. Gli umarelle sono felici a vedere la macchina castra castagne, non gli sembra vero? Sì, infatti. E non ne sbaglia una, perché se non castra la castagna, no, quando le mette sulla padella esplode, fa un botto terribile. Ogni tanto ne sbaglia, diciamo che c'è un piccolo margine d'errore, perché le castagne a seconda del diametro più piccole passano e non vengono tagliate. Infatti, ma cos'è, diciamo, la lama che taglia la castagna, con che l'avete costruita? Abbiamo messo sul motore di una lavatrice un volano con tante lame. Beh, è un imbuto che fa cadere le castagne. È pericolosa come macchinetta, perché qualcosa di umano lì, no, fa frittelle A meno che uno non ci vada a mettere un dito, non può capitare. Va bene, nulla. Penserà di brevettarla questa macchina? No, assolutamente no. Il mio brevetto, la felicità del brevetto è la soddisfazione nel, diciamo, nel riuscire a risparmiare tempo durante le feste. Va bene, grazie Alessandro. Maria. Marilia. No, mi hanno scritto Maria, però non ho colpa io, lo fanno apposta. No, guardi, è un gioco. Mi creda, Marilia, è un gioco perverso tra me e le gentili e le giovani colleghe che mi mettono i nomi strani o me li scrivono in maniera che possa cadere nell'errore. Quindi Marilia. Però io ho un nome strano. No, Marilia è un bellissimo nome. Grazie. Ma allora, come mai le hanno dato questo nome, Marilia? Come? Perché l'hanno chiamata Marilia? Una nonna si chiama Marilia? No, la mia nonna si chiamava Rosalia, però essendo troppo regionale mi avrebbero subito identificato come siciliana doc. Invece così non si capisce. Marilia sarebbe Maria Rosalia. Bravo, esatto. Anche Rosaria potranno chiamarla. Sì, ma è troppo regionale. Ma perché si vergognavano delle radici siciliane? Ma no, no, non credo. Credo che l'abbiano fatto per gioco e poi... Ma è resto, gioco? Adesso hanno indovinato perché io sono presto andata via dalla Sicilia per motivi di lavoro e quindi mi sono, diciamo, spostata a Roma. Ma infatti non si sente che è siciliana, un accento. Insomma. Bene, Marilia. Allora, io diciamo che sono un operaio elettricista falegname mancato, nel senso che fin da bambina i miei amici mi facevano, invece di regalarmi i profumi, mi regalavano set per ferramenta e attrezzature varie, perché ho sempre avuto, diciamo, questa passione di fare... Erano regali allusivi, forse non capiva il significato. Esatto. Infatti, quando poi ho realizzato, diciamo, ho fatto i lavori di casa, a un certo punto, nelle cose un po' più complicate, ho mandato via gli operai e ho messo in posa il pavimento dei bagni. Che è complicatissimo metterlo in piano. In palladiana, sì, sì, esatto. Anche perché era un mosaico in palladiana fatto a mano, perché adesso li fanno tutto in maniera molto, sì, industriale. Di quelli che si sbaglia, devi buttare via tutto e ricominciare da capo. Bravo. Lo so. E poi anche io mi sono cimentato nelle piastrelline bisazza, non lo farò mai più nella vita. Sì. Quindi, insomma, poi il risultato, sono stata molto contenta del quindi lei recupera vecchi elettrodomestici e con quelli fa lampade. Poi, esatto, sì, non riesco, cioè spesso provo tantissima pena quando vicino ai cassonetti vedo vecchi frullatori sì, poverini. E penso anche che ovviamente saranno... E cosa ne fa di un frullatore, se si può dire alla radio? Faccio una lampada, ovviamente, infatti è uno dei regali preferiti ai miei amici, che quando si rompe il frullatore me lo portano subito. Ma con le lame rotanti che... No, io smonto la parte interna del motore e diciamo faccio una variazione sull'interruttore, facendolo diventare l'interruttore che invece di frullare ovviamente accende e spegne la lampada. Quindi poi nella... Però gira la lampadina, c'è, cioè, la luce girevole come una discoteca no, anni no, 70. No. Beh, quello era il bello. No. Però mi ha dato un suggerimento, proverò. Se no, scusi, qual è l'effetto stroboscopico? Lei deve mettere una lampadina, la fa girare velocissima e c'ha una sorta di effetto allucinatorio e crea delle atmosfere di cui ella stessa trarrà i più grandi giovamenti. Raffaella. Salve. Sono la persona più atapica che conosco, con le mie conoscenze. E vive anche sola? Vivo da sola, sì. E quindi mi faccio tutto, tipo mi monti i lampadari, monti i mobili, sgorgo sciacquoni, mi faccio il pane da sola e quindi mi cucino da sola di tutto. Ecco, sul pane, guardi, ho un thread infinito su Facebook di persone che disquisiscono sul farsi pane in casa. Qualche suggerimento? Pare che vada molto di moda fra le signore: mi faccio il pane in casa, ci sono anche le macchinette per farselo, ci si scambia le formule, ci scambia la madre del lievito, ci sono segreti esoterici tra donne, anche tra uomini, nel farsi pane in casa. Va molto di moda oggi, ho visto. Io ho incominciato parecchi anni fa, quando ancora non era di moda, perché mi piace fare il pane, ero affascinata da questa cosa, ed è difficile fare la madre. Lo so. Quindi... Anche il padre, guardi, che dà molti problemi. Anche fare il padre, di spezzare una lancia, anche, non è facilissimo. E invece a me viene benissimo. Io compro le farine integrali biologiche. Addirittura vedo che vendono la farina e 7 cereali. Io ce l'ho, ma non ho mai usato farci nulla. No, io mi compro farina di segale, Manitoba, è tutto biologico. E mi faccio le mie formulazioni e mi vengono questi pani integrali che sono di una fragranza. E quando si è fatta questi belli sfilatini da sola, che fa? Me li mangio con grande gusto, ci metto sopra la marmellata. Va bene, vedete che in fondo l'autarchia domestica permette di aprire degli orizzonti di piacevolezza che nemmeno noi abbiamo mai lambito con la nostra immaginazione, abituati a comprare tutto, a farsi fare tutto dagli altri. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.